Effetto Mondo. Germany's delinquent, they've been delinquent for years, and they owe NATO billions of dollars, and they have to pay it. So we're protecting Germany and they're delinquent. That doesn't make sense. E buongiorno a Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Buongiorno, ecco il nostro Trump. Volevo fare una precisazione molto importante, perché ho visto che purtroppo questo aggettivo delinquent che Trump ha usato per descrivere il comportamento moroso, secondo lui, della Germania nel non versare questi miliardi che dovrebbe alla NATO come contributo, viene già tradotto come delinquente. Non è corretto, perché è un modo molto formale, quasi legale, direi, di indicare appunto un comportamento negligente, in questo caso moroso. Sta di fatto che è questo di cui Donald Trump accusa la Germania, cioè di non aver rispettato gli impegni sui contributi che deve versare alla NATO per mantenere le truppe internazionali, tra le quali ci sono anche decine di migliaia di soldati americani. E ora l'aveva paventato nei giorni scorsi, ieri l'ha detto ufficialmente, è sui giornali di oggi, vuole appunto ritirare queste truppe americane che sono soprattutto in Germania. In realtà gli editoriali si concentrano sul fatto che Trump vuole anche aprire un fronte commerciale con la Germania, che però fa parte dell'Unione Europea, quindi non può aprire un negoziato accusare di, per esempio, avere quel surplus che sappiamo ha anche verso alcuni paesi europei, perché il negoziato deve avvenire finché c'è con l'Unione Europea. Quindi sembra un po' un'operazione anche di distrazione dell'opinione pubblica, se vogliamo, di quella internazionale, dagli altri due grandi temi che naturalmente sono sui giornali di oggi. Da una parte i disordini che sono in questo momento, il cui epicentro è ad Atlanta, legati all'uccisione dell'ennesimo afroamericano da parte di un poliziotto bianco, e dall'altra la sentenza di ieri definita storica della Corte Suprema americana, quindi della Corte Costituzionale, che rende illegali le discriminazioni sul lavoro per tutte le persone LGBT, cioè lesbian, gay, bisexual and transgender. E uno potrebbe pensare magari che fosse già così, in realtà no, ci sono tantissime di persone che dicono non solo di essere state discriminate sul lavoro per la loro identità sessuale, ma proprio anche di essere stati licenziati. Quindi comunque, questo si legge negli editoriali, con questa sentenza, e sappiamo che le sentenze nel sistema di common law americano fanno giurisprudenza, apre la strada a moltissime cause. Hai ancora un altro audio da farci ascoltare, Giulia? Sì, volevo farvi sentire la sorella dell'afroamericano ucciso Rayshard Brooks, che ieri, parlando in una delle tante commemorazioni, ha fatto lo stesso appello che abbiamo sentito anche dalla famiglia di George Floyd, cioè vorremmo giustizia. Le persone, i poliziotti che si macchiano di questi atti di violenza usando una forza sproporzionata e uccidendo le persone che non meritavano quel tipo di reazione, devono essere condannati, e soprattutto deve essere riformata nel suo complesso la polizia, le regole di ingaggio, quello che viene definito uso della forza. Sentiamola. The trust that we have with the police force is broken. And the only way to heal some of these wounds is through a conviction and a drastic change with the police department. Giulia. Qui tema tocca proprio il tema della fiducia, cioè nelle comunità afroamericane. Tra l'altro Atlanta è una città con una comunità afroamericana molto grande, il capo della polizia era un'afroamericana, il sindaco è un'afroamericana, due donne tra l'altro. Dice: il rapporto di fiducia è broken, è spezzato, e per alleviare, per curare queste ferite, l'unico modo è una conviction, cioè una condanna per il poliziotto che ha ucciso il fratello, e una riforma di tutta la polizia. E questo, lo dicevamo, sta diventando inevitabilmente un tema di campagna elettorale, e per questo forse appunto tanti quotidiani dicono che Trump ha aperto un altro fronte, che è quello con la Germania, perché forse lì riesce a essere più convincente, soprattutto con la sua base elettorale. Giulia, a proposito di Germania, la questione del turismo sui giornali tedeschi, con le prime foto dei turisti a mollo. Sì, sappiamo che da ieri, 15 di giugno, le Baleari, quindi per esempio Maiorca, dove c'è la foto che c'è sulla Süddeutsche Zeitung, possono appunto accogliere solo i turisti tedeschi. E quindi il titolo Endlich Maiorca, finalmente a Maiorca. E c'è la foto di questi turisti in riva a bordo piscina con un cameriere che serve loro un cocktail. Però la notizia principale, sono due le notizie sui quotidiani tedeschi. Da una parte la ripresa dei negoziati sulla Brexit, ce la siamo un po' dimenticata la vicenda Brexit e il fatto che questi mesi della pandemia avrebbero dovuto anche essere dedicati a definire i dettagli per quello che poi succederà a partire dal 2021. E secondo i giornali tedeschi le posizioni del Regno Unito si sono molto ammorbidite perché naturalmente sono in una posizione di grande debolezza in questo momento e forse chissà rimpiangono anche di non poter far parte di quel Recovery Fund o Next Generation Plan. Di cui faranno parte i membri dell'Unione Europea. L'altra notizia, ne abbiamo parlato tanto anche in Italia, anche sul Sole di oggi, è questo accordo, anche qui potremmo definirlo storico, il governo tedesco finanzierà con 20 milioni di euro e quindi entrerà nel capitale di questa azienda che fabbrica vaccini e quindi una sorta di partecipazione pubblica economica, ma anche quindi per accelerare la ricerca in un'azienda che fino a questo momento era stata privata in tema, quindi un nuovo rapporto pubblico-privato cogliendo questa occasione dell'emergenza di trovare nel più breve tempo possibile un vaccino. Se invece i tedeschi fanno il bagno a Maiorca e gli inglesi si devono accontentare di meno, vedo, della riapertura dei negozi, ieri, giusto? Sì, grandi foto su tutti i quotidiani, dal Guardian all'Independent, perché le foto sono principalmente di Oxford Street, che è un po' una sorta di Corso Buenos Aires qui a Milano, cioè non una strada del lusso, ma dove ci sono tante catene del fast fashion, e in effetti erano tutti in coda per fare il primo shopping post-lockdown. È interessante, se abbiamo ancora 30 secondi, il titolo invece di Le 15. Figaro. 15. 15. Le Figaro auspica che ci sia una relocalizzazione dell'industria francese, quindi che questa crisi porti le aziende francesi che avevano delocalizzato a tornare in Francia, e invece la Spagna sta mettendo a punto un piano da 150 miliardi di investimenti per convincere sempre l'Unione Europea a appunto far sì che anche la Spagna benefici del famoso Next Generation Fund o Recovery Fund, chiamiamolo come ci piace di più. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi. Ci risentiamo domani, oggi con Filippo Reggi in regia, Laura Faggini in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao da Alessio Maurizi, buona giornata.